La delusione è tanta, almeno per quello che mi riguarda. E mi auguro anche che la delusione che io ho oggi, anche l'1% l'abbiano i calciatori. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Si prende tutta la scia. Oh! Dentro! Dentro Charles! Dentro Leclerc! Staccata da paura! Vediamo se ricompare intanto penalità per Lewis Hamilton, 5 secondi! Esterno bene per Palacio, c'è Barro con spazio, lo trova Dominguez dall'altra parte, Barro fulmina Handanovic e il Bologna è addirittura in vantaggio, contropiede perfetto. So sexy, I'm sexy, so cool and dance with Michael. Partita da portare in carrozza a casa, siamo stati capaci, siamo riusciti a perderla, ecco. Li può calciare, Insigne a giro, Insigne, gran gol, Napoli in vantaggio. C'è nessun segreto, che allenano giocatori forti e bisogna, tante volte bisogna ricordarglielo, perché dopo la finale di Coppa Italia gli dissi che bisognava pedalare e non parlare e dare continuità, perché il prossimo anno, ripeto sempre le stesse cose, il prossimo anno tanti di questi giocatori rimarranno, che faranno parte di questa rosa qua. Dobbiamo creare una mentalità vincente, quella di saper soffrire, di lavorare e di pensare non all'io ma a noi. Roberta Fresani in regia, oggi c'è Lorenzo Nespoli con Edoardo Lavezzare alla buona redazione. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Mollami subito il radio tweet. Radio tweet è sull'Inter. Credo che arriva un giorno in cui bisogna fare un bilancio. Questo giorno pensavo sarebbe arrivato fra qualche settimana, perché consideravo l'Inter in grado di non dico di riaprire la lotta per lo scudetto, perché non ci credo, ma insomma di essere un pochino più operativa e tonica. In certi momenti recenti dava questa sensazione, poi però ci sono passaggi come quello di ieri e come quello col Sassuolo che cambiano tutto, quindi oggi è il giorno del processo ed è giusto farlo, ed è diciamo esattamente come quando ci sono stati passi avanti, era significativo e doveroso dirlo. Oggi è giusto fare tutte le analisi su una stagione che sta prendendo a questo punto veramente una piega abbastanza incolore. Sì, tu sai che ne parliamo tutti i giorni, e questo è esattamente anche il mio pensiero, forse ancora più estremista, perché pensavo che l'Inter fosse sinceramente in corsa per lo scudetto dopo la ripresa. Ieri ho pensato intensamente a un mio amico, Giancarlo Marocchi, non solo perché gli voglio molto bene, ma perché pensavo a quei tre bambini che gli hanno illuminato la domenica pomeriggio, prima Leclerc e poi Juvare Barrow. Ciao Ciccio. Ciao a tutti, ciao Pier. Senti, io partirei da Leclerc con te. Sì. Beh, adesso finalmente sono cominciate le cose serie, ovvero la Formula 1, poi tra un po' il Monte Mondiale, eccetera. E sì, venerdì e sabato terrificanti. E poi la domenica succede questo, ecco, perché è bello che uno immagina che l'automobilismo sia tutto scontato perché non succede mai niente, invece da un gran premio che doveva essere super noioso, insomma gli ultimi 5 giri sono stati di una bellezza che hanno dimostrato che Leclerc è come forte. Sai, non capita frequentemente che nella Formula 1 di oggi un pilota vada molto oltre la macchina come ha fatto ieri Leclerc, perché la Ferrari vale pochino in questo momento dai primi exit poll. Sì, però sai, adesso siamo d'estate, ci saranno 40, anzi forse più di 50 gradi sull'asfalto in ogni Gran Premio, speriamo, perché a occhio così sembra che proprio sia l'unica cosa che soffrano le Mercedes, se invece non soffre la Ferrari. Quindi vedi che già mezzo secondo l'abbiamo guadagnato qui parlando. Hai capito? Conta sul fattore campo, Pierluigi. Certo. Non sono un esperto, sono uno che segue, che si diverte. Mi sembra un prestinato, mi sembra uno di quei piloti che hanno il quid. Poi se questo... Senti, quid, dimmi una cosa, Pier, invece, sul piano così di quella fotografia, Leclerc, che sai benissimo, la foto ha fatto il giro del mondo, giustamente, no? Quella prima del via, tutti con la maglietta nera. Leclerc non si inginocchia con lui anche altri giovani piloti, oltre al decano di tutti, Kimi Raikkonen. Poi Leclerc spiega: guardate che io dal primo giorno sono al fianco di Lewis Hamilton, ho la maglietta nera, mi unisco ovviamente alla protesta, però non voglio sentirmi costretto a fare un gesto formale, mi comporto nella vita di tutti i giorni secondo i miei principi. Sì, ma qui sta, diciamo, le iniziative simboliche non devono essere imposte, ognuno fa quello che sente. Mi sembra doverosa questa precisazione, perché altrimenti si poteva dare adito al dubbio invece che ci fosse una contrarietà alla campagna, alla battaglia, e quindi al principio che le discriminazioni non devono esistere da nessuna parte del mondo, in particolar modo nello specifico quello sulle vite dei neri. Quindi poi non imporrei mai per decreto, non deve essere un dovere manifestare, non deve essere un dovere indossare una maglietta di un certo colore o inginocchiarsi o fare una veglia o fare una manifestazione, quindi da questo punto di vista c'è il principio fondamentale della libertà. Sì. Detto questo, insomma, io ho grande stima di chi come Lewis Hamilton dal giorno zero si è battuto in prima linea, privatamente, pubblicamente, per questa causa. Anch'io, ma anche di Leclerc, che dice qual è il suo pensiero, è stato molto attaccato sui famigerati social e secondo me non granché ha ragione. Invece in Formula 1 mi sembra ci sia un parallelo da fare con il calcio, Giancarlo, perché nel calcio tre angoli e un rigore, no? Siamo tornati ai tempi dell'oratorio. In Formula 1, come c'è un contatto, finisci dietro la lavagna. Ieri è successo ancora con Hamilton. Ora, nella totale sicurezza, però a me piace vedere combattimento anche in pista. Sì, è vero. Sì, lì Hamilton non aveva proprio esagerato. Cioè, segue una linea, non serve assolutamente per colpire Norris. No, Albon. Albon. Non lo so, delle volte diventa difficile, perché quando c'è Hamilton la Mercedes dice però se non lo pulisco dicono che sono succube dei forti, eccetera, e quindi è difficile giudicarlo, però insomma tanto Hamilton è il favorito comunque. Un po' come la Juventus, è un po' come la Juventus. È come la Juventus che perde malamente la Coppa Italia e quindi ti aspetti che abbia preso una botta. Quello è vero, perché in Coppa Italia gioca, al di là del risultato, che sono stati due pareggi, gioca male due volte. E te la ritrovi adesso che gioca pure bene. Non solo con 7 punti, ma gioca pure bene. E allora questi sono proprio... hanno qualcosa in più degli altri dal punto di vista mentale. Sì, anche. Sì. Oltre che al resto, poi vincere aiuta a vincere, quando hai distacco giochi più tranquillo. Ieri Pierluigi tu hai detto: diamo 7 giorni al campionato e siamo tutti appesi con le unghie al Milan e all'Atalanta. Adesso gliene diamo 6, nel frattempo ne è passato uno. No, ma siamo appesi. Ieri tra l'altro all'Inter ha fallito l'ennesima possibilità di ridare un senso, che poi insomma, se anche avesse vinto ieri, le probabilità di vincere il campionato sarebbero state giustissime, però insomma avrebbe partecipato a questa adrenalina. È rimasta solo la Lazio. La settimana è una settimana definitiva, perché le sensazioni di cui parlava Rocchi giustamente sono le condivido al 100%, che l'ha guardato nelle ultime sono una sensazione di forza, di completezza, di fluidità che non dava 3 settimane fa, e quindi c'è la tentazione di pensare che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, quando si alza l'asticella le squadre abituate a vincere e con quel valore tecnico aumentano il proprio rendimento. Questa però è la settimana della controprova, perché questa settimana l'asticella è veramente molto molto alta, perché giocare a San Siro senza Dybala e De Ligt non è facile, perché poi arriva la squadra più in forma in campo. Arriva il dentista, sì. poi arriva il dentista e quindi fra sei giorni. In tutto questo c'è da capire la Lazio, che io credo reagirà bene perché l'ha sempre fatto, però oggettivamente è un po' stanca. È chiaro che Lecce e Sassuolo non sono Milan e Atalanta, però c'è anche da capire. La Lazio ormai non può più sbagliare, deve fare sei punti. Io penso che li farà tra Lecce e Sassuolo, però è chiaro che a questo punto anche solo un pareggio da qualche parte significa la resa. Il dentista è più in forma del campionato, Giancarlo. Atalanta non riesce a perdere neanche con le riserve. Tu pensi che la Juve possa perdere dei punti con queste due, Milan e Atalanta? Il Milan ha già fatto un colpo incredibile, con una sicurezza, con una forza contro la Lazio, quindi adesso c'è un po' di euforia, insomma, perché adesso la band di Pioli, perché ecco, sembra proprio una banda e lui è felice di essere proprio alla testa di questo gruppo di ragazzi, perché stanno cambiando tutto in società, e allora c'è la voglia di far vedere che insomma ci sono giocatori da Milan, allenatore da Milan, e questo può fare, ecco. È chiaro che ci attacchiamo un po' al Milan, all'Atalanta, perché succeda qualcosa, ma siamo in una china solita, un déjà vu degli ultimi anni, e quindi è vero, cioè, c'è questa settimana, insomma, poi si gioca sempre, quindi passa in fretta il tempo, già domani, sì. Già domani diventa bello, tanto dall'Inter, quindi torno all'inizio della domanda, dove i due ragazzini del Bologna, dello splendido Bologna, hanno fatto saltare il banco, prima o poi uno bravo ci deve spiegare cosa succede all'Inter. Provaci. Perché Conte, Spalletti, Pioli dopo 8-9 vittorie consecutive, cioè quando inizia ad andare tutto bene, cioè ricordiamoci che con Spalletti e con Conte l'Inter è stata in testa a Natale. Sì, certo. Poi arrivano le vacanze di Natale e qui non ne veniamo mai fuori con l'Inter, quindi uno bravo ce lo dovrà spiegare. Comincio a prendere i colori della delusione alla stagione dell'Inter, in tutta onestà, sì. Perché poi facciamo i conti, ok, ha più punti di Spalletti un anno fa, più è sicura la Champions e tutte queste cose, però io non posso dimenticare quando dicevamo a settembre, ma anche a Natale, come dice Giancarlo, Pierluigi, che l'Inter poteva essere l'anti-Juventus, che Conte al primo anno, attenzione, perché di solito il colpo gli entra. Adesso sembra addirittura sembra ci siano incertezze per quanto riguarda la costruzione futura di questa squadra, Piero. Sì, è il modo, è la forma, il terzo posto, se sarà il terzo posto, perché attenzione, adesso c'è l'Atalanta, non è che sia un risultato da buttare. Questa stagione non è uguale a quella precedente, lo ricordo sempre, l'Inter c'entra la Champions League a 5 minuti dalla fine con quella traversa che la salta, quindi il progresso c'è stato, però è pure vero che si è speso molto, è pure vero che è arrivato un grande allenatore, è pure vero che in Europa si è usciti in Champions, sia pure in un girone complicatissimo, e poi soprattutto c'è questo aspetto psicologico, mentale, di cui parlava Giancarlo le tante fa, cioè secondo me è anche la forma, quando tu perdi 5 punti come quelli che hai perso tra Sassuolo e Bologna, con due partite buttate via, cioè con 5 punti in più, insomma basta fare i calcoli, oggi l'Inter sarebbe a meno 6, poi non vincerebbe probabilmente il campionato, ma sarebbe seconda in classifica, e quello che si sta dicendo è semplicemente tenere un risultato sul 2-1 e sul 3-2 col Sassuolo e ieri 1-0 col Bologna con l'uomo in più, quindi non stiamo parlando delle grandi imprese, stiamo parlando proprio di sbalzi d'umore che sono molto letterari e fanno pensare alla cura di Battiato, ma che nel calcio non aiutano, ecco. Sì. Questi sbalzi d'umore non vanno bene, non è ancora una squadra matura, pronta, capace di impacchettare partite, di metterle però cioè, ha ragione Giancarlo, cioè qualcuno bravo ci spieghi perché vale il parallelo con la Ferrari, risorse, anche grandi pressioni, perché all'Inter come alla Ferrari le pressioni sono tantissime, c'è la Mercedes Juventus da battere, c'è l'Hamilton Ronaldo da battere, però non puoi squagliarti sempre in questa maniera, Giancarlo. No, lo devono a noi appassionati, insomma, a noi che lo sport ci piace quando per vincere uno deve lottare contro più di un avversario, quindi sia la Ferrari ce lo deve, l'Inter ce lo doveva, adesso per l'Inter rimandiamo l'anno prossimo, per la Ferrari abbiamo appena cominciato, e sì, perché diventa tutto più bello, perché è chiaro che le partite sono 10 e da commentare proviamo sempre qualcosa. Però vuoi mettere con una bella Inter in lotta per lo scudetto? Volevo solo un'ultima opinione su questo. Si è parlato molto e parleremo ancora. Tra l'altro, dopo la borsa affronteremo il discorso Inter, torneremo sul discorso Inter e sulla Roma. Si è parlato molto di Lukaku. Da giocatore, troppo fair play non va bene, perché non siamo al campetto, secondo me, su quel rigore ceduto a Lautaro e poi disgraziatamente l'ha sbagliato, però ora decidere anche, se sei tu rigorista, di tirarlo tu quel rigore lì sull'1-0, no? Sì, te lo dice un non rigorista, quindi se uno mai me l'avesse in carriera lasciato a me avrei rifiutato, quindi sarebbe tornato tutta la normalità, cioè ecco, però è un mattoncino che fa la casa, ecco. Servono tutti i mattoncini, quindi che è il primo rigore di tiri il rigore, certo. Cioè, senza dire che l'Inter non lotta per lo scudetto per colpa di quel rigore, però no, diciamo che serviva anche quel pezzo lì, dai. Chiaro. Vabbè, aspettiamo domenica, stessa ora, stesso luogo, stessa pista, stessi protagonisti, vediamo che succede. Carica l'iPad, mi raccomando. quello sempre, anche se Bonan poi mi sgrida, eccetera. Fa niente, ci parlo io. Ci parliamo io e parlo, non ti preoccupare. Ciao Gianca, grazie. Ciao. Allora, ciao. Rapido stacco e poi andiamo sugli ascoltatori. 800240024, ci sono già Marco Simone in linea, state lì, arriviamo subito. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. No, perché Pierluigi sul serio, Marocchi, adesso non ce te lo posso dire, quando mi capita di incrociare la Sky e c'è la corsa, lui davvero va in onda con in tasca, con il portatile sotto la giacca, perché guarda, cioè, sotto il banco, guarda cosa succede. Marco, buongiorno. Buongiorno. Da Monza, appassionato di Formula 1. Precisamente da Lesmo, io sono a Bidole. Ah beh, giusto. Sono in curva. esatto, io volevo precisare, perché Lesmo comunque per gli sportivi comunque qualcosa vuol dire. Più di qualcosa, uno dei monumenti del motorismo mondiale. Io sono, non dico nato nell'autodromo, però più o meno. Quindi di cosa ci parliamo? Parliamo dell'Inter, però. Va bene, che è come la Ferrari più o meno, no? Come la Ferrari più o meno. È come la Ferrari, bravo. La Ferrari sarà grande, sarà, però arriva sempre prima quell'altra. Che adesso direi grigia, nera, sono sempre loro. Perché? Perché, secondo me, comunque, adesso Zhang ha dato delle direttive buone. Secondo me bisogna lasciarlo lavorare con te, e ha ancora un anno a disposizione. Se l'anno prossimo Inter non vince nulla, e nulla vuol dire, cioè, non è che deve vincere la Coppa Mogliatti capo, deve vincere la Champions, deve vincere lo scudetto, la Coppa Italia, qualcosa di. Allora sì, se no, perché io vedere l'Inter che vince 1-0, che sbaglia un rigore e poi perde 2-1, sono stanco di vederla. Sì, l'ha vista qualche altra volta. Si sta preparando per il derby col Monza? Tra poco anche il Silvio qua. Io da Lesbo Arcore vicino, voglio dire, anche lui sta ritornando in pista nonostante la sua età, dice vabbè, voglio dire anche la mia, va bene. Vediamo poi alla fine, come si dice, chi metterà più. Guarda, io sto guardando Rai Sport, sto guardando la partita Italia-Argentina del 78. Me la ricordo, sì, l'ho vista in diretta, per ragione anagrafica. L'ho vista anche in diretta, ma la sto riguardando, giusto perché sono a casa. Ho detto, allora non le dico il risultato. Lascio questa, questa suspense. Pierluigi, ma secondo te se l'Inter, grazie Marco, se l'Inter dovesse, beh, in Champions ci va, è chiaro, poi vediamo seconda, terza, magari l'Atalanta lì dietro, non, sulla posizione finale non sarei tanto tranquillo, ma pochissimo cambia. Secondo te può pensare all'Europa League per dare un senso diverso e un colore diverso a questa stagione e anche, sul futuro, anche al futuro deve immediato. Pensare all'Europa League, Inter e Roma, poi ne parleremo dopo la borsa, sono le due in questo momento, in questa giornata sono i due temi più caldi, no? A livello di crisi, sono le due squadre che in Europa League possono provare a rilanciare una stagione che sta diventando veramente negativa nel caso della Roma e piuttosto negativa nel caso dell'Inter. Ripeto, è il fatto di perdersi un bicchiere d'acqua che diventa quasi un aggravante per quanto riguarda la squadra di Conte. Dal punto di vista tecnico, secondo me il problema è stato il mancato inserimento di Eriksen, che oggi ancora una volta vediamo, insomma, non ha giocato bene e non ha fatto giocare bene i compagni. Non può essere solo colpa sua. Io sull'acquisto di Eriksen non ho dubbi sul fatto che in prospettiva sia un giocatore importante, comprato secondo me anche a un prezzo buono, quindi è un'opportunità ed è stato giusto prenderlo, però insomma adesso è passato un po' di tempo, c'era stata un po' di lentezza nell'inserirlo che era stata imputata a Conte, poi adesso gioca ma non bene. Questa, dal punto di vista tattico, l'Inter si è incartata da gennaio in poi e ha avuto un tipo di andamento che è quello di cui parlava Marocchi prima, che è abbastanza usuale negli ultimi anni, ma che non fa piacere. Cioè, la squadra invece di migliorare peggiora. Ma poi anche una, secondo me, ha un'insospettabile fragilità, perché comunque certo, prende sempre molti anche gol. Questa è molto più forte oggi di prima, perché se guardiamo i numeri della prima parte della stagione, l'Inter era molto più solida, succedeva molto meno. Poi il calcio non è mai i compartimenti stagni, no? Quindi non è che tutti i reparti sono strettamente interconnessi. Oggi è una squadra più fragile, che fa meno filtro in mezzo, che concede più occasioni, che dal punto di vista offensivo continua a produrre, perché questo sicuramente non manca, che ha avuto un'evoluzione di Lautaro significativa, questo va detto, poi voci di mercato non lo so, però insomma questo ragazzo ha fatto, se non sbaglio, un gol in 11 partite adesso, e ieri ha ovviamente sulla coscienza questo rigore, e quindi tutto questo insieme di problemi provoca un calo da vecchia Inter, cioè da squadra un po' umorale, un po' fragile, talentuosa ma fragile. Sì, ma come diceva l'ascoltatore, di queste ne ho viste tante. Simone, buongiorno. Io volevo intervenire. Onestamente sono stanco da 10 anni sentir parlare di Inter, di fattore psicologico. Cioè, in questi 10 anni sono passati 200 giocatori all'Inter e 8 allenatori. Qui non è un fatto di fattore psicologico che ogni anno sembra questa manfrina. Questi sono giocatori scarsi, gente scarsa. Cioè, secondo me Gagliardini sono mani rubate all'edilizia bergamasca. Non è un giocatore all'altezza. Poi, ancora questa storia di questi italiani. In Italia ci sono giocatori scarsi. È inutile che all'Inter continui a dire acquistare giocatori italiani. Io sogno ancora il triplette con 11 stranieri in campo. Sì, non è che ce ne siano tantissimi, cioè non è che l'interfaccia della bandiera. Però è molto interessante, al di là ovviamente dello sfogo, capisco perfettamente. Non sono cambiati soltanto 200 giocatori o quanti sono cambiati anche 3 presidenti, nel senso che si è passati da Moratti a Toir e Ressa Zang, quindi e vari allenatori. Quindi questo significa che c'è un elemento a dover giudicare così, magari un po' superficialmente. Adesso ne parliamo con Ciccio Valenti, quasi ambientale, quasi psicologico, perché cioè, Conte onestamente tutto gli si può dire, meno che non sia uno in grado di mantenere un equilibrio, una disciplina, un ordine, quindi una partita come quella di ieri non te l'aspetti in assoluto, tantomeno da una squadra di Conte, una partita davanti 1-0 con l'uomo in più, contro una squadra che gioca bene ma che tutto sommato non c'ha neanche tantissimo da chiedere, quindi è segno di qualche problema. Poi io non so se l'aspetto psicologico, se i giocatori siano così scarsi, ma a me non io sembra, non credo, che l'Inter non sia credo così sia scarso questo, non credo che sia questo. L'Inter sicuramente qualche mossa l'ha sbagliata, qualche mossa l'ha fatta bene, ma non mi sembra una squadra così scarsa. Non mi sembra che il valore della rosa dell'Inter possa essere considerato inferiore a quello della Lazio, a quello dell'Atalanta, no, anche se sicuramente Lazio e Atalanta giocano meglio, questo non c'è dubbio, giocano meglio e meritano dei risultati migliori, perché sicuramente hanno massimizzato più dell'Inter il rapporto fra il potenziale a disposizione e i risultati in campo. Lavorano insieme da tanto tempo quei gruppi che tu hai citato, cioè la Lazio e l'Atalanta, l'Inter non ancora, questa può essere una tenue parziale attenuante. Giuseppe, poi ci fermiamo per la borsa. Buongiorno, ci siamo sentiti l'anno scorso, chiamo da Bari, sì. Avevo entusiasmi alle stelle parlando del Torino in Europa League, volevo un po' da lei Carlo e da Pierluigi, che fa sempre delle disamine perfette, su parlare di questa parabola discendente di questo Torino, della gestione di Urbano Cairo in 15 anni, ci ha fatto tanto sognare, tante promesse, ma rimaniamo sempre una squadra provinciale, cioè volevo capire un po' le dinamiche. Forse il buon Pardo si ricorderà anche di Petracchi, è andato lì alla Roma, l'hanno licenziato, non so se lui mi può aiutare a capire che sta succedendo. Più che altro è andato via lui. Io penso questo, che noi siamo sempre qui tutti i giorni a commentare, e commentiamo la cronaca delle partite, la cronaca dei campionati. Se facciamo una valutazione come quella che mi pare voglia fare lei, dobbiamo farla di medio periodo. Allora, Caio, con tutti i suoi difetti, con quello che sicuramente gli si può rimproverare, in certi momenti avrà anche commesso gli errori, se noi guardiamo la storia del Torino negli ultimi anni, è sicuramente una storia migliore di quello che c'era prima. È una storia peggiore, ovviamente, dei tempi del grande Torino, dello scudetto di metà anni 70, di quello che il Torino rappresenta nella storia del calcio, ma se guardiamo quello che c'era stato prima, sicuramente il Torino oggi ha una continuità, questo è doveroso, è storico. Diciamo che ha lo status da buona borghesia del calcio italiano. Ecco, poi questa qui è una stagione che prima finisce senza danni e meglio è, perché è chiaro che il Torino ha preso una china pessima, gli errori sono stati fatti, probabilmente bisognava fare del mercato a gennaio, probabilmente la preparazione con l'Europa League, l'eliminazione contro il Wolves ha creato dei problemi, gli errori sono stati fatti, questo è indiscutibile. Però questo se valutiamo la cronaca di questa stagione, adesso c'è una partita importantissima contro il Brescia che il Toro non può sbagliare, se guardiamo la storia di questi anni e vediamo ovviamente che cosa c'era prima e che cosa è stato adesso, secondo infatti, me non sono anni da buttare via. No, ha raggiunto uno status e una solidità che in passato non aveva, quando negli anni della continua altalena tra Serie A e Serie B, adesso è, ripeto, è una squadra che fa parte della buona borghesia del calcio italiano in maniera stabile. Questo è già un risultato, se si vuole alzare l'asticella, vabbè, possiamo anche parlarne. Fermiamoci per la borsa, torniamo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Convocati. Io mi arrabbio con me stesso perché io sono l'allenatore, io sono responsabile di quello che accade in campo, se c'è una squadra stabile, se c'è una squadra instabile, io comunque ho le mie responsabilità assolutamente. Non mi piace di alibi, noi vogliamo fare più, le ultime due partite non abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, oggi penso che abbiamo fatto una partita diversa, ma io devo essere il primo a mantenere l'equilibrio in questo momento. Abbiamo oltre 8 partite, abbiamo la Liga Europa e dobbiamo lavorare per cambiare questi ultimi 3 risultati. Dobbiamo sentirci tutti in discussione, io per primo, in maniera molto molto onesta. E da qui alla fine dobbiamo dimostrare di meritare l'Inter, questo è fuori dubbio. Si doveva rientrare a corte questi due imputati del momento, Conte e Fonseca, parleremo di entrambi. Ciccio Valenti, buongiorno. Ciao a tutti. Non ti seccare però. Non ti seccare però, lo psicodramma Inter a quest'ora della stagione, lascia perdere che siamo a luglio, siamo un po' fuori tempo, però è scontato, è quasi scontato negli ultimi anni. E lo psicodramma? Questa è la situazione, però ammetto che Pier lo sa bene, insomma, questo campionato ammetto di non sentirlo più di tanto, questa fine di campionato, per cui mi auguro che ci si possa proiettare dopo per una nuova stagione, per altre altre cose, anche perché insomma ora ci siamo un po' incartati, insomma, i risultati sicuramente siamo incartati. Sono contento che Conte abbia fatto autocritica ed è giusto che anche lui si metta in discussione su tutto quello che è successo. Questo non vuol dire vai via Conte perché prendi 10-11 milioni all'anno, cioè, però insomma ci sono ogni tanto dei disegni della squadra in campo che magari insomma si possono rivedere. Sì. Beh, Conte d'altra parte, per lui leggevo oggi Ivan Zazzaroni, dice che l'allenatore comunque, ed è vero, che ha molto credito nei confronti della stampa, di tutti noi, dell'opinione pubblica eccetera eccetera, adesso comincia a riscuotere un po' quel credito, ma penso che qualche appunto su come ha gestito questa stagione, qualche riflessione vada fatta. Pierluigi, innanzitutto ha rovinato la festa il mio amico Ciccio Valenti, ieri ha organizzato un splendido aperitivo in terrazza, ma funestato dal suo compleanno, gli faccio gli auguri dove gli faccio il vivo, gli faccio via radio, però insomma la pensa gliel'ha rovinata il Bologna e gliel'ha rovinata l'Inter. No, scusa, il taglio della porchetta. Questo è vero. Questo non è bene. Sono andato via prima della porchetta, che non si dice. Sono andato via prima della porchetta. No, però a parte le battute, no, io penso che sicuramente Conte abbia delle responsabilità in questa stagione. E Conte ha avuto un impatto in questa stagione, insomma, nel bene e nel perché sicuramente l'Inter di quest'anno non è quella dell'anno scorso. In Champions a cavallo con la sigaretta in bocca, anche se sicuramente non con l'entusiasmo che la prima parte della stagione poteva in qualche modo far immaginare, e ha delle colpe secondo me in questa seconda parte della stagione, perché come dicevo prima della pausa c'è stato un calo dal punto di vista della... Attenti, sento più. Non sento più Pierluigi Pardo. Quale responsabilità, Ciccio? Posso proseguire tranquillamente il discorso di Pierluigi. Penso onestamente anche ieri insomma ci siamo un po' confrontati. C'è stato nella prima parte della stagione, quando era un campionato normale, i momenti fondamentali, vale a dire la trasferta con la Lazio e vale a dire la trasferta a Torino con la Juve, al di là del fatto che potessero essere più o meno forti le due squadre, anzi secondo me una delle due, la Juve era sicuramente più forte, però insomma sono state perse, cioè i match ball sono stati persi. Ho perso un match ball a Dortmund, comunque secondo me Conte è un allenatore quanto mai valido, quanto mai importante, e nella coppia Marotta-Conte mi auguro che l'anno prossimo possa arricchire ulteriormente. Non possiamo dire però che non sia stato accontentato in praticamente tutte le sue richieste, che la società non lavori in perfetta sintonia con Conte, tanto che molto spesso abbiamo detto Marotta fa le sue esternazioni perché gli vengono dettate da Conte. Diciamo che ha il club in mano e quindi ampi poteri, no? Beh, adesso anch'io pensavo che Conte potesse, tra virgolette, comandare su Marotta, poi mi sono reso conto in due o tre situazioni in cui mi sono reso assolutamente conto di come Marotta abbia in mano il pallino del gioco spesso, e spesso anche nelle trattative. Lo ripeto, io dopo aver commentato per anni il poker, con Marotta non ci giocherei mai, perché sa benissimo prevedere le tue mosse, la seconda e la terza mossa, un po' come Totti lo faceva in campo, no? Cioè, la forza di Totti non era il singolo passaggio, era riuscire a capire quale sarebbe stata l'evoluzione del gioco. Sì. E quindi su questo ciò non toglie che Conte deve dare dimostrazione adesso da un punto di vista caratteriale, perché questi sono i giocatori, e poi in previsione della prossima stagione probabilmente deve fare le sue richieste, ulteriori richieste, e continuare in un cammino. Non vorrei, perché comunque oggi leggevo insomma un po' i social che fosse da mettere bisogna assolutamente condannarlo per tutto quello che guadagna. Io ho l'idea che sia stata una scelta della società, una scelta assolutamente valida da un punto di vista caratteriale. Poi insomma non è che tutte le domeniche si può sempre pensare all'aspetto psicologico, c'è un aspetto tecnico che ti permette poi di concentrarti su alcuni momenti dove la valenza psicologica è importante, ma poi c'è il gioco, no? Poi ci sono i giocatori, poi ci sono quei giocatori che ci mettono un secondo, come diceva Lidl, ma prende il pallone e smistarlo, e ci sono quelli che se ne mettono quattro. E mi auguro che determinati giocatori possano arrivare. Grazie Ciccio, a presto, buon compleanno di nuovo. Ciao Ciccio. Questo secondo me, Carlo, è il punto debole della stagione dell'Inter, nel senso che è mancato il salto di qualità, e questo si può discutere della stagione, chiaro, per carità, Cioè, nel momento in cui si è aggiunta qualità a questa squadra, si è cambiato qualcosa perché c'era magari davanti una certa prevedibilità nella partnership Lukaku-Lautaro, li hanno anche allargati, non ha funzionato, non c'è stata la crescita. Quindi questo secondo me è oggettivo. Però la base dell'Inter dal punto di vista societario, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista degli investimenti mi sembra solida, quindi io continuo a pensare che sarà la prossima, ad oggi, non ho la palla di vetro, sarà la prossima cosa grande del calcio italiano se devo valutare dall'esterno. Ragazzi, certo, tutte le componenti ci sono, non manca niente, hai l'allenatore, hai la società, hai i quattrini, hai i giocatori, hai la dirigenza, hai tutto quello che serve. Intanto fammi salutare Jacopo Savelli. Ciao Jacopo. Buon pomeriggio. Ciao. Con cui subito dopo il traffico invece affronteremo l'altro capo di imputazione del calcio italiano, cioè quello relativo a Fonseca, che io già anticipo, secondo me di responsabilità ne ha pochissime. Traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, processo a Conte è fatto. Jacopo Savelli, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Senti, io dicevo prima, altro imputato del momento, Fonseca. Ieri ha perso ancora a Napoli. Roma un po' migliore, Roma che ritrova Zaniolo, aria sempre bassa. Secondo me Fonseca non ha tutte queste responsabilità. Ma io non penso che, diciamo, quando le cose non vanno non c'è mai un solo responsabile, no? Adesso tu hai appena finito, prima di lasciare la linea alla viabilità, dicendo che l'Inter ha tutto per diventare una grande squadra, no? Ha un presidente, ha i soldi, ha un grande allenatore, ha un grande amministratore delegato, ha il top del top, eppure nel girone di ritorno ha fatto 18 punti, la Roma ne ha fatti 13, ma le premesse della vigilia all'inizio del campionato vedevano l'Inter tra le favorite per la Scudetto, la Roma pronosticata da tutti come possibile, probabile al quinto posto. Cosa c'è, diciamo, secondo me, che unisce le due squadre? Il fatto che sia Conte che Fonseca siano andati meglio quando hanno avuto delle rose ristrette. Conte se ne lamentava, diceva che erano troppo pochi, però la squadra era prima in classifica alla 17ª giornata. Fonseca si è ritrovato la Roma migliore quando di fatto aveva 7, 8, 9 giocatori infortunati. Bellissimo. La gestione della rosa al completo, Conte con gli acquisti di gennaio, Fonseca anche col recupero degli infortunati, invece ha portato delle difficoltà. Io non è che certamente le responsabilità non sono di Fonseca, ma non si può nemmeno pensare che avere delle difficoltà nella presidenza, la Roma poteva essere già ceduta, non ci fosse stato il Covid, probabilmente comunque prima o poi il cambio di proprietà ci sarà, però come vedi si può avere una società solidissima e avere dei problemi, e una società dal futuro incerto e avere dei problemi. Io dico questo: nelle prime 3 partite Fonseca ha utilizzato 22 giocatori, e 22 giocatori a volte non si utilizzano in tutto il campionato, evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Sì, continuo a pensare che la poca chiarezza societaria, appena ne abbiamo discusso a lungo, mandi ombre sul campo. Al di là del paragone, che è assolutamente perfetto, perché tutti e due sono andati in calo nella seconda parte della stagione, e quando hanno dovuto scegliere, quando hanno avuto più margine di scelta, io credo che, insomma, per onestà si debba dire che la Roma ha fatto una buona prima parte della stagione con mille problemi, con mille infortuni, e Fonseca è stato bravissimo nel gestire quella fase. Poi l'evoluzione non c'è stata. Poi sappiamo benissimo, ne parlavamo l'altro giorno con Pierpaolo Marino, che la società è fondamentale, perché la società significa tranquillità, significa quei piccoli, ma non perché i giocatori, se non c'è una società forte, non si impegnano. Questo va detto, perché sennò uno pensa male. I giocatori si impegnano, però è una sfida fra eccellenze, fra gente che va a 1000. Se tu invece che andare a 1000 vai a 900, già trovi quell'altro che ti batte, perché è più motivato di te. Quindi, secondo me, l'aspetto ambientale sicuramente incide, il fatto la poca chiarezza sul futuro, però, onestamente, in questo momento Fonseca non sta facendo bene, questo va detto, secondo me va riconosciuto. Poi secondo me è giusto tenerlo, è giusto tenerlo. In questo momento non sta facendo ma bene. A me era piaciuta moltissimo però la Roma della fase ascendente del campionato. A me era piaciuta molto, Jacopo. E mi era piaciuto molto anche la gestione di Fonseca, Jacopo. No, verissimo, ma la Roma è proprio spaccata in due, perché alla 17ª giornata, prima della pausa invernale, vince a Firenze, è a 4 punti di vantaggio sull'Atalanta, pur avendo perso lo scontro diretto, ed è avanti al Milan, avanti al Napoli, cioè davanti a tutte squadre che nei pronostici erano superiori alla Roma. Poi qualcosa si è fermato, la gestione è stata sicuramente agevolata, ripeto, dal fatto che avevi giocatori contati. Poi quando e poi certamente da c'è l'infortunio di Zaniolo, cioè Zaniolo l'infortunio è stata una mazzata per la Roma, perché Zaniolo è vero che la Roma è una rosa ampia, ma Zaniolo è un giocatore unico, lo vediamo anche dal mercato, da che tipo di interesse suscita, e da quel momento in avanti la Roma ha perso moltissimo. Poi sai, le carte sono sul tavolo, insomma, 13 punti in 12 partite sono veramente pochi. Sì. Questo è, il fatto è che sai cos'è, che adesso si tratta di pensare al futuro, no? A quello che verrà, e diventa difficile non immaginare un'altra estate di grandi partenze, di trading, di corsa alla sopravvivenza. No, sopravvivenza buona, ma pur sempre non di grande prospettiva. Ma io, questa è una cosa che a Roma si è più volte detta dopo la famosa Coppa Italia persa, e la Roma rilanciò sul mercato e finì quella stagione al secondo posto con Garcia, mollando poi a 3 giornate dalla fine, se no avrebbe fatto fino a 94 punti. Poi si è detto dopo la prima mancata qualificazione in Champions, quando si fa il preliminare, e anche lì la Roma invece a rilanciare l'anno dopo con Spalletti ha fatto il record di punti. È chiaro che la situazione è fluida, è evidente, insomma, che c'è un possibile, probabile passaggio di proprietà, però la Roma anche, non è detto che per far quadrare i conti debba vendere necessariamente tutti i suoi giocatori più forti, si può arrivare allo stesso obiettivo vendendone 4 o 5 piuttosto che privarsi di quello più importante. Sì, perché questo, se vuoi, è un po' un paradosso, però la Roma secondo me ha una, così come sicuramente adesso le cose vanno malissimo, non c'è dubbio, però se andiamo a vedere, ha parecchi giocatori interessanti dal punto di vista del mercato. Poi tutti sanno che la Roma è un po' in difficoltà, che c'è questo aspetto economico, che c'è malumore da parte della piazza, che bisogna rientrare, quindi è chiaro che dal punto di vista, diciamo, della tecnica, della trattativa, la Roma è un po' debole, però la mercanzia c'è, eh? Cioè la Roma può anche decidere di tenere Zaniolo, come dice giustamente Jacopo, e fare dei sacrifici con altri giocatori di fascia media. Da questo punto di vista è una squadra che ha, guarda, tu sai, te l'ho sempre detto, un rinnovamento. Secondo me ha un monte talento, una quota talento che è inferiore solo alla Juventus e all'Inter dal punto di vista del... gli manca chiarezza, presenza, scelte precise, gli manca, forse manca un po' di personalità. Perché poi il talento deve essere accompagnato anche da giocatori che in campo facciano sentire anche il peso, diciamo, della loro esperienza, come diceva Pier, delle scelte. Ieri la partita di Napoli, che certamente è un passo avanti, poi l'hai giocata anche magari più difensivamente, tutto quello che vuoi, però la partita è aperta. Ovviamente il Napoli la vince meritatamente, ma poteva girare, la partita poteva anche girare e finire in altro modo. Ma infatti è stata la migliore delle ultime giocate dalla Roma, e si parte credo da questa base di tentativo di ripartenza. Vabbè ragazzi, devo chiudere, mi spiace molto perché andrei avanti, discussione estremamente interessante che riprenderemo. Grazie per Luigi Pardo, grazie naturalmente a Jacopo Savelli, a Roberta Frisani, a Lorenzo Nespoli, Edoardo Ravezzari, ciao a tutti, a domani. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy, saluti.